Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Last Minute in scena, in effetti è dal 24 luglio ed è esteso fino all'8 novembre, la 32esima edizione del Crisalide Forlì Festival. Tanto entusiasmo perché la nostra estensione di frequenza in DAB ci permette la presenza in tutta la regione Emilia-Romagna. Quindi ne approfitto per salutare le amiche e gli amici dalla Romagna. Pensate, abbiamo una regione così bella che ha due nomi, Emilia e Romagna. Per cui assieme e insieme con Radio Città Fujiko, l'estensione di programmazione culturale che ci porta a questa edizione di Crisalide che seguiamo da tempo, ma che in questo caso ha maggior ragione evidenziata. Non che prima, però insomma a questo punto dico con il piacere di arrivare anche in frequenza e non solo in streaming. Sensibile, dicibile, la curatela di Mask Teatro, con noi c'è Sara Baranzoni, alla quale do il buongiorno. Buongiorno Sara. Buongiorno e buongiorno anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Scusa se mi sono dilungato, ma ci tenevo a evidenziare che abbiamo un'estensione che ci dà la frequenza praticamente in tutta la regione. Oggi sono arrivati saluti da Rimini, siamo a Forlì, per cui insomma voglio dire Radio Città Fujiko con voi ascoltatrici e ascoltatori, la diffusione culturale e non solo, però in questo caso con il Breakfast Club e il Last Minute in scena, motivo di approfondimento oltretutto in Last Minute perché da oggi esteso e fino all'8 novembre questa 32esima edizione. Sono tante 32 edizioni, Sara? Sì, sono decisamente tante, ma la compagnia Mask Teatro è una compagnia che esiste dal 1992, quindi ha una storia anche piuttosto lunga, una storia riconosciuta non solo a livello regionale ma anche nazionale, certo, e internazionale, quindi il festival rispecchia, diciamo, questo lungo periodo di attività. E ne siamo ben contenti di ciò, per essere partner e poterne approfondire assieme con questo filo conduttore che è sensibile, dicibile. Ci puoi dire qualcosa di più partendo da queste due parole, Sara? Certo, allora, sensibile, dicibile è il titolo che abbiamo dato all'edizione di quest'anno, è anche il titolo di tutta una progettualità triennale che abbraccia appunto fino al 2027, quindi 25, 26 e 27, un titolo che avevamo pensato già da qualche tempo, che ci risuonava per questioni diverse, per una serie appunto di coincidenze, una serie di modi di espressione che avevamo voglia di attraversare, e poi un po' alla volta questo titolo è diventato una specie di sintomo del presente, no? E oggi più che mai siamo di fronte a una realtà in cui quello che è sensibile, quello che può essere sentito, ci pone in crisi, e allo stesso modo ciò che può essere detto, dunque il dicibile. Non sempre ciò che sentiamo lo possiamo dire, non sempre ciò che diciamo corrisponde a ciò che sentiamo. E quindi crediamo che in questo titolo, che non vuole assolutamente, diciamo, orientare le proposte di spettacoli e di appuntamenti che vengono convocate dal Festival Crisalide, ma appunto è una proposta di dialogo, una proposta di apertura in cui il senso, diciamo, si costruisce anche in maniera aperta, in maniera diffusa, senza appunto piegarsi a una risposta preordinata da un titolo. Sono 13 debutti, 24 compagnie ospiti, 26 spettacoli, diversi giorni di programmazione. Allora, dal 24 luglio, quindi è questa sera, e come si comincia, Sara? Esatto, questa sera avremo un'anteprima presso gli spazi di Mask Teatro, il Teatro Felix Guattari di Forlì, e questa sera cominciamo appunto con una proposta della compagnia di Widel, che aveva già presentato in anteprima l'anno scorso a Crisalide uno studio di questo stesso spettacolo che ha debuttato da poco a Sant'Arcangelo. Ci sarà anche un concerto di Rocco Castellani, contrabbassista, e poi appunto una replica di Voodoo di Mask Teatro, che è un lavoro della compagnia che è stato montato un paio di anni fa e che ha riscosso molta approvazione, molto successo, e che quindi si continua a proporre proprio per la sua potenza e la capacità appunto di raccogliere favori della critica e del pubblico. E questa sera sarà appunto un'anteprima che coincide con l'inaugurazione del festival di della scuola di filosofia Praxis, a cura di Rocco Ronchi, che appunto prende il via oggi, e poi ci saranno appunto altri due momenti concentrati per gli spettacoli. Il primo, che si svolgerà dal 22 al 24 agosto sulle colline di Meldola e che vede una modalità produttiva e di presentazione molto particolare. Ci sono una quindicina tra artisti, compagnie e laboratori e pensatori che si alternano in uno spazio rurale, in luoghi naturali, con un'attenzione anche appunto alla poetica e all'estetica che può essere costruita in relazione con il territorio. Dunque il pubblico si muoverà durante un percorso di diverse ore, saranno circa 3 ore di percorso, si muoverà e incontrerà appunto le diverse performance nello spazio naturale. E poi, una volta esaurite diciamo queste 3 giornate estive, si passa alla parte autunnale di Crisalide, che prenderà il via il 4 di ottobre e si concluderà appunto l'8 di novembre. Durante la programmazione si alternano compagnie e artisti molto giovani, under 35, verso i quali Crisalide ha da sempre avuto un occhio di attenzione, ha favorito anche il debutto di molti artisti nazionali, regionali molto, molto promettenti, ha invece formazioni più consolidate, più conosciute sul panorama italiano e internazionale. Segnalo appunto che quest'anno avremo anche la presenza del Theater Tikva, che è una formazione tedesca la più attiva e conosciuta sul piano del teatro inclusivo, una compagnia che lavora appunto con una quarantina di interpreti appunto dalle diverse capacità, e sarà molto interessante appunto anche poter dialogare con la regista sul tipo di attività che questo teatro porta avanti. Io intanto ti ringrazio per questo motivo di partenza, di approfondimento che abbiamo esteso, ricordando che diamo la possibilità anche per i singoli appuntamenti, nell'avvicinarsi di essi, di aver modo di ampliare e amplificare il discorso con Radio Città Fujiko. Però ovviamente c'è la possibilità di informarsi anche online. Se ci puoi dire qualcosa di più, Sara, con questa possibilità, dove e come? Sì, certo. Allora, ci si può informare sul sito web di Crisalide, che è www.crisalidefestival.eu, oppure sul sito di Mask Teatro, che è www.mask.it. E ricordo per gli ascoltatori e le ascoltatrici che il festival da sempre osserva una politica di prezzi ridotti, e quindi sarà possibile per le serate appunto di Gualdo partecipare con 15 euro appunto a tutta la serata, che prevede appunto 15 compagnie. E invece per le serate appunto di ottobre e novembre i prezzi si aggirano tra i 10 e i 12 euro a serata, quindi insomma diciamo, certo, che il desiderio è davvero quello di permettere alle persone di avvicinarsi e di essere con noi in questa festa. E a proposito di festa, vorrei anche segnalare il 26 ottobre, in presenza degli artisti e cineasti Graeme Thompson e Silvia Maglioni, celebreremo il centenario di Gilles Deleuze, che è un filosofo molto caro anche a Mask Teatro e al Festival Crisalide, che ha dedicato diversi lavori appunto a questo filosofo. Quindi ci sarà appunto una festa, una celebrazione che speriamo riesca anche a restituire un po' della gioia dell'incontro tra arti performative e filosofia. Ma io mi auguro di risentirti, anche perché mi pari così mattiniera e luce. lucida, che è un grande piacere trovare questo catalogo di appuntamenti e darne una sintetica anteprima insieme a noi. Quindi ti invito a restare in ascolto, ovviamente se posso mando un brano musicale, puoi restare sì? altri due minuti che portiamo l'attenzione su quello che sarà questa sera e poi ovviamente ci salutiamo per risentirci a presto con la 32esima edizione di Crisalide Festival, la curatela è di Mask Teatro, a tra poco. Change in me had come. They say such a shame for a wise man to play such games. How could I be so unaware to lose your love over a cheap ass love affair? I can't believe that this is happened to me. I took advantage of what you didn't see. A girl, you're so fine, you know you're right on time. You blew my mind. Philly Soul di Erasmus Hall, nuovamente in diretta Last Minute in scena per Crisalide Forlì Festival, arti performative e filosofia. E siamo con Sara Baranzoni di Mask Teatro. Ci sei? Sei ancora in linea, Sara? Certo, sono okay, qua. Ok, allora, come dicevo, sensibile e dicibile, l'aspetto dell'arte, l'estetica, l'attenzione, l'approfondimento e quella che è filosofia. Come può avvenire tutto ciò e con quali percorsi? Perché mi affascina molto tutto ciò, capisco l'aspetto multidisciplinare, però ritrovare tutto, abbinarci filosofia, ci puoi dire qualcosa di più? Certo, sì, Crisalide in effetti ha avuto questa sensibilità fin dalle prime edizioni, si ricordano negli anni inviti a filosofi e filosofe nazionali e internazionali anche con grandi nomi, e quest'anno comunque non è da meno. E in generale l'incontro tra arte e filosofia è un incontro che non è nuovo, non è Mask Teatro a proporlo per la prima volta, però è un incontro che appunto fa sì che discipline diverse che utilizzano linguaggi diversi si possano incontrare sul piano dei problemi reciproci delle diverse discipline che vengono appunto affrontati ciascuno con i propri modi di espressione, e il dialogo che se ne crea è sempre frutto di apprendimenti e di grandi stimoli anche per la creazione. Quest'anno in particolare avremo ospiti al Festival Crisalide, non solamente filosofi ma anche scienziati e matematici. Nella fattispecie ci saranno incontri con Alessandro Sarti, che è un matematico che lavora a Parigi, ci sarà appunto un incontro con Massimo Filippi, che è primario al San Raffaele di Milano, e poi ci sarà tra i filosofi anche Paolo Vignola. Tutti e tre sono conosciuti sul piano internazionale, i loro lavori hanno grande risonanza e quindi crediamo che anche quest'anno ci sia il desiderio appunto di continuare a costruire questo dialogo molto importante. Rispetto alla filosofia in particolare, Mask Teatro ha da alcuni anni permesso la sperimentazione di un contenitore che abbiamo deciso di chiamare Fuori Logos, precisamente per far comprendere come la filosofia, al pari degli spettacoli che vengono proposti durante il festival, non abbia il ruolo di presentarsi come se fosse messa in una vetrina, ma appunto venga stimolata, venga punzecchiata, per così dire, in un territorio che non necessariamente le è proprio. Fuori Logos, infatti, è un termine che abbiamo scelto proprio per indicare il fatto che le persone che vengono invitate vengono condotte al di fuori del loro già detto, al di fuori del loro pensiero già pensato, e vengono spinte anche ad andare al di là di quello che diciamo è il pensiero in cui solitamente si trovano a loro agio. Questo non significa che le persone verranno messe in difficoltà, ma significa appunto dare prova di un pensiero vivo, di un pensiero che si fa anche sul momento. Certo, dialogico e costante, è importante. Sensibile, dicibile, 32esima edizione, curatela di Mask Teatro per quanto riguarda il Crisalide Forlì Festival. Grazie per aver dato risposta esaustiva a questo mio motivo. Ogni tanto esco dal programma del festival stesso per avere anche un aspetto emotivo ed emozionale di contenuto. Quindi mi congedo momentaneamente, devi sapere che noi siamo a disposizione perché il percorso è lungo, quindi quando si avvicinano determinati appuntamenti il Breakfast Club è a disposizione. Al che sottolineiamo l'appuntamento di questa sera, che è appunto 24 luglio, e chiudiamo con questa partenza, Sara. Sì, e giustamente, come ricordavo, questa sera 24 luglio si apre il Festival Crisalide con una collaborazione con la Scuola di Filosofia Praxis. Sarà in scena la compagnia cesenate di Widel con Eco Dance of Furies, lavoro appunto che ricordavo precedentemente è stato studiato l'anno scorso proprio nella fase estiva di Crisalide, e sarà seguito appunto da un concerto di Rocco Castellani, contrabbassista, dal titolo Fabula, in cui si rilegge attraverso la musica l'avventura di Orfeo. E infine si chiude con Voodoo di Mask Teatro, che è appunto uno spettacolo, una performance che è già stata proposta negli spazi del Festival Crisalide, ma che viene appunto riproposta proprio per sottolineare la forza produttiva di questa compagnia forlivese. Ricordo che per questa sera l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, e speriamo appunto di vederci a Forlì. Grazie di cuore e buona giornata e buon festival, Sara. Grazie, grazie a tutti e a tutte. Buona mattinata, ciao. We'll be right back. Abbiamo ascoltato un brano tratto da un concerto dove il tubista Michel Godard ha portato a Castel del Monte, questa sede meravigliosa, ottagonale, e da ogni parte, in maniera appunto a ogni vertice di questo ottagono, musicisti in esibizione per portare emozioni, visioni e questi suoni che abbiamo trovato. Tra questi vorrei citare la presenza di Trovesi, di Renaud Garcia Fons al contrabbasso, Trovesi al contralto, Jean-Louis Matinier alla fisarmonica e Michel Godard, come ho detto, l'ideatore di questo progetto, alla tuba. Questo progetto in stile Moodyman, con questa house colta, particolare, intensa. In the Red è il brano e il titolo del disco che vi sto proponendo, che è la sigla che ci porterà a conclusione. L'appuntamento a domani con Sementerie, le notti delle Sementerie, al venerdì. Poi un altro progetto curato da Maria Genovese, che conosciamo per quanto riguarda l'avvicinarsi del 2 agosto, strage alla stazione di Bologna. Ne parleremo con Maria Genovese domani alle ore 8 in diretta telefonica. A seguire ci sarà l'incontro con le Sementerie artistiche per il venerdì in scena di Radio Città Fujiko. Non esiste fine stagione, no, non c'è planata, no, non molliamo di un millimetro, ne sono portato avanti con entusiasmo questi contenuti relativi al Breakfast Club e relative anche a tante iniziative che diffondiamo con la prima colazione in diretta, con la voce dei protagonisti, con la musica, ma soprattutto con voi, che ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani alle ore 7 per la colazione. È l'ultima colazione in vigilia di weekend, in quanto il venerdì successivo sarà il 1° agosto, per cui è l'ultimo venerdì di stagione. Io vi aspetto alle ore 7 puntuali. Con questo vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon ascolto, ma soprattutto una buona giornata, un buon giovedì. A breve Liberi Dentro, poi la rassegna stampa vera e propria di Radio Città Fujiko. Quindi a tra poco, mattiniere e mattinieri, a domani alle ore 7 con la prima colazione in diretta dal vostro William Piana. Momentaneamente è tutto. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.